E andiamo ora, cari amici, ad un altro tema a noi veramente caro. Ci tocca da vicino, molto da vicino. Parliamo di San Giuseppe come patrono dei moribondi. E se tutti noi cristiani abbiamo bisogno in ogni istante di una protezione valida e sicura che ci sostenga nelle prove e nelle tribolazioni della vita e ci difenda dagli assalti del demonio, soprattutto con la preghiera, in questo caso fatta col cuore, di questa protezione, scrivo, in grado ancora maggiore, abbisogniamo nei nostri ultimi istanti, quando cioè stiamo per compiere il grande passo verso l'eternità e la salvezza. Perché questa speranza si trasformi per noi in certezza e ci faccia guardare con occhio sereno la nostra partenza da questo mondo, abbiamo bisogno che in quei momenti, in modo particolare, sia al nostro fianco qualcuno che ci sia quasi scorta per il nostro ultimo viaggio da qui al cielo, che sia la nostra compagnia in quell'estremo momento. E quale scorta più sicura potremmo desiderare dopo Maria Santissima se non quella del nostro glorioso San Giuseppe, che la Chiesa stessa chiama giustamente nelle sue invocazioni patrono dei moribondi? Certo, possiamo dirlo, il transito di San Giuseppe alla vita del cielo fu, possiamo immaginare, il più dolce che si possa desiderare, perché come ci dice la tradizione, è avvenuto tra le braccia di Gesù e di Maria Santissima. Ma San Giuseppe si premura di ottenere questo transito per il cielo anche per i devoti che a lui si rivolgono con affetto e confidenza di figli, quindi per ognuno di noi, se lo desideriamo. Egli infatti è protettore, padre tenerissimo, e non c'è dubbio che assista premurosamente ognuno di noi qui sulla terra, come con altrettanta premura di padre ci conforti e ci consoli tutti del momento della morte per condurci alla salvezza eterna. Supplichiamo allora, dico, costantemente per noi, soprattutto per tutti i moribondi, questo grande patrono della buona morte, perché si degni con Maria, sua amatissima sposa, di pregare per noi adesso e nell'ora della nostra morte. E dopo questo passaggio, possiamo dire estremo, ci viene quasi logico pensare che l'intercessione e il potere di San Giuseppe sia terminato. Non è così. Infatti l'assistenza e la protezione del nostro santo dopo la morte resta intatta. Non è pensabile che colui che la Chiesa invoca consolatore dei miseri non interceda in modo potente per le anime del purgatorio. Non dubitiamo, cari amici, San Giuseppe per mezzo delle nostre preghiere, di noi che siamo ancora in cammino, allevierà e consolerà tutte le anime che raccomanderemo, tutte le anime del purgatorio e in modo speciale le anime del purgatorio più abbandonate. Egli, che è giustamente invocato come il consolatore dei miseri, è dopo la Vergine Maria il più sollecito fra gli amici di Dio, sempre pronto a portare conforto a tutte le anime di cui si sente padre. A questo proposito riporto un aneddoto abbastanza interessante. C'era un religioso che aveva esposto al cardinale Rouleau, l'arcivescovo di Quebec in Canada, il suo parere sui benefici di San Giuseppe verso le anime purganti. Era un padre, un religioso che studiava, era uno studioso di San Giuseppe, ma in particolare approfondiva questa tematica, proprio dei benefici di San Giuseppe, sui benefici di San Giuseppe verso le anime purganti. E scriveva al suo cardinale. Il cardinale così rispondeva a questo padre: «La vostra devozione a San Giuseppe vi ha felicemente ispirato. Essendo San Giuseppe il patrono della Chiesa universale, il suo potere si esercita sicuramente non solo sulla Chiesa militante, ma anche sulla Chiesa purgante. Le litanie lo invocano col titolo di patrono dei moribondi. Ora, dice il cardinale, quei moribondi che egli conforta al momento del loro trapasso possono contare sicuramente, anche in seguito, sulla sua paterna protezione». E qui mi collego a un altro grande santo, San Luigi Guanella, che molti di noi conoscono. San Luigi Guanella era un ferventissimo devoto di San Giuseppe, e lo invocava in modo particolare proprio come patrono dei morenti, proprio conoscendone l'intercessione, la potente intercessione. Cosa fece San Luigi Guanella? Proprio a questo proposito fondò a Roma la Pia Unione del transito di San Giuseppe per gli agonizzanti di ogni giorno. E qui, con l'approvazione e anche l'aiuto di Papa San Pio X, egli si prefisse due scopi principali. Il primo era quello di divulgare nel mondo il culto di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale e in particolare della buona morte. Il secondo era raggruppare il maggior numero possibile di sacerdoti, di consacrate e consacrati, ma anche dei fedeli, in una crociata universale di preghiere e di opere buone, proprio pensate a favore dei morenti di tutti i luoghi e di tutti i momenti, disponendo così anche loro a una morte santa, chiedendo l'intercessione particolare proprio di San Giuseppe. Pensate che lo stesso San Pio X, nell'esortazione del 12 febbraio del 1914, scriveva così, riguardo a questa istituzione, a questo transito. Desiderando noi, dice il Papa, di fare conoscere quanto apprezziamo questa lodevolissima istituzione, vogliamo che il nostro nome venga scritto per primo fra tutti i soci della medesima, esortando tutti i nostri amati fratelli nel sacerdozio a non dimenticarsi di ricordare ogni giorno nel divin sacrificio, nella Santa Messa, gli agonizzanti. Parimenti, dice San Pio X, consigliamo a tutti i fedeli, e soprattutto ai religiosi dell'uno e dell'altro sesso, di abituarsi ad innalzare speciali preghiere a Dio e a San Giuseppe a favore dei morenti. Già che, se santo e salutare pensiero è quello di pregare per i defunti che sono giunti al porto della salvezza, non è men degna di raccomandazione la premura di implorare l'aiuto del cielo sugli infelici che si trovano nell'estremo cimento da cui dipende l'eternità, soprattutto per chi è lontano da Dio. Adoperati, dice il Papa, per salvare queste anime e ti assicurerai una buona morte. Sappiamo che quello che facciamo per gli altri sarà fatto anche per noi. E San Pio X conclude così: quando sarai in agonia, milioni di fratelli pregheranno allora per te. Ecco, avendo toccato, diciamo, vari ambiti in tutte queste catechesi proprio sulla figura di San Giuseppe, e vista l'importanza che ricopre oggi, ma in futuro e per l'eternità, la missione di questo grande santo, ci chiediamo se questa figura, se questa persona possa essere inserito al centro della nostra salvezza. Qualcuno potrà dire che forse è una pretesa esagerata metterlo al centro della storia del mondo. Per usare il linguaggio del nostro tempo, dovremmo dire che non abbiamo molte informazioni, come sappiamo, non conosciamo il luogo né la data della sua nascita, non ci ha lasciato San Giuseppe nessuno scritto o opera artistica, nessuna sua parola ci è stata tramandata. Tutto quello che sappiamo di lui è contenuto in alcuni versetti dei Vangeli. Ma è necessario affermare, cari amici, che San Giuseppe è sì al centro della nostra storia umana. Apparentemente di quello che egli ha fatto non resta nulla, un oggetto, un edificio o qualcosa di diverso, d'altro. Vi è però una cosa molto più grande, una cosa infinita, perché dalla bottega di questo artigiano, di quest'uomo umile, di quest'uomo meraviglioso, è uscito colui che ha edificato l'universo, che forgia ogni giorno un mondo nuovo, Gesù. Importante nella vita di San Giuseppe non è ciò che realizzò, bensì quello che Dio fece per lui, con lui e per mezzo di lui. E le conseguenze di quella missione immensa durano ancora e dureranno per sempre, in eterno. Il Signore affidò a Giuseppe la Vergine Maria, colei che avrebbe dato al mondo il Figlio di Dio. E accettando di legare la sua vita a quella di Maria col matrimonio, San Giuseppe entrò nel grande mistero del Verbo incarnato e della sua Chiesa. Dal suo modesto e umile focolare, in una cittadina, possiamo dire ai margini della storia, in un paese occupato dallo straniero dei Romani, uscì una fiamma che non cessa di illuminare e di incendiare l'universo nella carità, nell'amore e nella misericordia. E poiché, come sappiamo bene, ogni cosa è stata creata per mezzo di Cristo, Egli, Gesù, è la piena verità e la chiave di volta dell'intero universo. Gesù è il punto centrale sul quale tutto riposa, verso il quale tutto converge, il passato, il presente, il futuro. E la venuta del Figlio di Dio sulla nostra terra è l'avvenimento fondamentale e basilare della storia, il punto di partenza e il suo punto di arrivo. Scrive San Giovanni: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Per amore ci ha donato il Signore. E per realizzare questo grande disegno d'amore, Dio vuole servirsi di Maria e di Giuseppe, cari amici, ma non come semplici comparse, ma come testimoni coscienti, ma allo stesso tempo responsabili e soprattutto liberi. Erano liberi di accettare sia Maria che San Giuseppe, potevano dire sì, ma potevano dire anche no. Possiamo dunque dire che Maria e Giuseppe si trovano realmente, ciascuno a suo modo, al centro della storia della nostra salvezza. L'uno e l'altro sono indissolubilmente legati alla venuta del Redentore in mezzo a noi. Proprio questo è il grande avvenimento dei secoli. Tutto quello che precede prepara questa venuta. Tutto quello che la segue e la seguirà ne è illuminato. Gesù dirà: io sono la luce del mondo, e proprio San Giuseppe e Maria sono le creature che maggiormente si sono avvicinate a questa luce. Le sono, anzi, possiamo dire, così vicini che si rischia di non scorgerli, tanto la luce è viva. La Madonna ha un profondo significato per noi, cari amici, proprio in ragione della sua cooperazione meravigliosa nel mistero del Verbo incarnato e della sua Chiesa. La stessa cosa dobbiamo dire per San Giuseppe. La sua storia, e possiamo dirlo, non ci toccherebbe in nessun modo se egli non fosse indissolubilmente legato a Maria e a Gesù. Dicevamo prima, non dobbiamo separare quello che Dio ha unito. E Dio non ha posto San Giuseppe al fianco del mistero in modo marginale, quasi secondario, ma ve lo ha inserito in modo pieno. E la sua partecipazione al mistero del Verbo incarnato mette proprio il nostro santo, come la Vergine Maria, al centro della storia del mondo. E dirò di più, anche Papa Benedetto XVI, al termine della Santa Messa celebrata in Vaticano proprio nella festa di San Giuseppe il 19 marzo del 2006, a questo proposito afferma: la figura di questo grande santo, pur rimanendo piuttosto nascosta, riveste nella storia della salvezza un'importanza fondamentale. Il Vangelo di Matteo pone in risalto le profezie messianiche che trovarono compimento mediante il ruolo di Giuseppe: la nascita di Gesù a Betlemme, il suo passaggio attraverso l'Egitto, dove la Santa Famiglia si era rifugiata, il soprannome di Nazareno. In tutto ciò egli si dimostrò al pari della sposa Maria, autentico erede della fede di Abramo. Fede in Dio che guida gli eventi della storia secondo il suo misterioso disegno salvifico. La sua grandezza, dice Papa Benedetto, al pari di quella di Maria, risalta ancor più perché la sua missione si è svolta nell'umiltà e nel nascondimento della casa di Nazaret. Del resto Dio stesso, nella persona del suo figlio incarnato, ha scelto questa via e questo stile nella sua esistenza terrena. E conclude: dall'esempio di San Giuseppe viene a tutti noi un forte invito a svolgere con fedeltà, semplicità e modestia il compito che la provvidenza ci ha assegnato. Penso, dice il Papa, anzitutto ai padri e alle madri di famiglia, e prego perché sappiano sempre apprezzare la bellezza di una vita semplice e laboriosa, coltivando con premura la relazione coniugale e compiendo con entusiasmo la grande e non facile missione educativa. E proprio San Giuseppe con Maria Santissima è l'unione perfetta. E non separi l'uomo quello che Dio ha congiunto. Queste parole che Gesù proprio ha pronunciato nel Vangelo a riguardo di ogni matrimonio valgono ancora di più per questo santo matrimonio di Giuseppe e Maria. Quel matrimonio, cari amici, che doveva dare origine alla grande famiglia del Padre Celeste, la Chiesa Cattolica, di cui la Sacra Famiglia è stata il primo inizio, la cellula embrionale, da cui derivano per soprannaturale generazione tutti i membri del corpo mistico di Cristo, ognuno di noi. E l'unione di Giuseppe con Maria è quanto di più sublime, intimo e bello noi possiamo immaginare, perché Dio stesso si è degnato di prepararla, prima dirigendo il cammino quasi parallelo delle loro due esistenze, poi di compierla, congiungendo le loro due vite in un matrimonio virginale. Ma voglio dirvi quello che scrive a questo proposito San Giovanni Crisostomo. Il Dio, dice, Cercò fra tutte le generazioni chi potesse essere scelto e dato per compagno a Maria. Egli considerò la fede incrollabile di Abramo, la purezza d'animo di Isacco, l'instancabile purezza e rassegnazione di Giacobbe, ma il suo sguardo divino non si posò sopra di loro e passò oltre. Solo in Giuseppe trovò chi egli cercava e sopra di lui cadde la sua scelta. Se dunque non poté passare sopra i meriti di San Giuseppe, bisognava che questo santo rassomigliasse perfettamente a Maria, non tanto nelle doti esteriori della persona, quanto piuttosto nelle disposizioni dell'anima. Bisognava, dice San Giovanni Crisostomo, che l'anima di Maria e quella di Giuseppe fossero come due anime gemelle, come due gocce di rugiada che brillano della stessa luce e degli stessi colori e raggi del sole nascente. Tale perfetta rassomiglianza aveva operato lo Spirito Santificatore, il quale, possedendo pienamente le anime di entrambi, riversava in esse, a guida di un sole divino, i raggi della sua luce e della sua santità. Dopo aver così disposto le loro anime ed averle condotte per un cammino quasi parallelo, il Dio le piegò l'uno verso l'altra, in modo che, guidate dalla sua provvida mano, avessero a convergere in un'unica direzione e a percorrere insieme una sola identica via. Questo, dice San Giovanni Crisostomo, si verificava per mezzo del loro sposalizio virginale. Da quel momento quale, quanta armonia nella loro vita, quale identità di volere, quale conformità di giudizi, quale fusione di affetti, quale concordia di sforzi e di intenti. E si conclude, quello che si sarebbe più tardi affermato dei primi cristiani, cioè dei primi membri di quella famiglia di cui Giuseppe e Maria avevano posto le basi, si poteva affermare dei due giovani sposi. Erano un cuor solo e un'anima sola. E possiamo, cari amici, proprio alla luce di queste bellissime parole, immaginare di quanto amore entrambi gli sposi circondano il loro piccolo Gesù. Possiamo immaginarlo con quanta forza e veemenza, e insieme con quanta soavità e dolcezza, convergono e si incontrano in lui i loro purissimi affetti. Gesù, bello, amabile, che passava dalle braccia dell'uno alle braccia dell'altro, dall'uno all'altro cuore, e in tutti e due sempre più si accendeva un medesimo amore. E lui, in Gesù, veramente Giuseppe e Maria erano diventati un cuor solo e un'anima sola. E una splendida immagine ce la dà anche un venerabile, Monsignor Fulton Sheen, un vescovo statunitense, grande devoto di San Giuseppe, afferma che Giuseppe e Maria sono uniti come due stelle che non si toccano mai, mentre i loro raggi luminosi si incrociano nello spazio. E poi poeticamente scrive: fu un matrimonio simile a quello che accade in primavera tra i fiori che uniscono i loro profumi, o a due strumenti che uniscono le proprie melodie all'unisono, formandone una sola. Rivolgendosi poi questo venerabile, in modo particolare, alle coppie di sposi, aggiunge quanto il loro esempio, cioè l'esempio di Giuseppe e di Maria, serva da modello non solo per loro, ma per tutti i cristiani, e invita a imitare i santi sposi nella loro costante unione con Dio mediante una comunione quotidiana, intima, fervente e confidente con Gesù Cristo. E conclude: per tutti i cristiani questo concretamente significa la vita sacramentale, la comunione con la Chiesa e i suoi pastori, la pratica dei divini comandamenti e delle opere buone. Vediamo, cari amici, come quest'intima intunione tra Maria e Giuseppe si sia manifestata in modo singolare in un paesino della Provenza, siamo in Francia. E il paesino è Cotignac, dipartimento del Var in Provenza, siamo nella Francia del Sud, e qui sorgeva, fin dal 1519, un bellissimo santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, che era apparsa col bambino Gesù tra le braccia e la luna sotto i piedi, a un contadino molto povero, Giovanni della Baume, mentre questo contadino era intento a far legna sul monte Verdeil, che costeggiava Cotignac. E qui, dopo l'apparizione, subito incominciarono ad accorrere i devoti da ogni parte della Provenza e da tutta la Francia, ottenendo molte grazie. Ma una grazia particolare, che si poteva dire miracolosa, la ottenne anche per vie straordinarie la regina Anna d'Austria, moglie di Luigi XIII, re di Francia. La regina, infatti, dopo 23 anni di matrimonio, grazie alle preghiere di un santo frate laico agostiniano, fratel Fiacre, a cui era apparsa in visione la Madonna delle Grazie di Cotignac, la regina era sterile, grazie alle preghiere di questo frate, la regina dette alla luce un bimbo che volle fosse battezzato con il nome di Luigi Adeodato, in segno di perpetua riconoscenza a Dio e alla sua Madre Santissima. Era il 5 settembre del 1638. Alcuni anni dopo, il 5 febbraio del 1660, quindi circa 22 anni dopo, Luigi Adeodato, divenuto re di Francia col nome di Luigi XIV, lo conosciamo molto come Re Sole, arrivò a Cotignac alla testa di un grande corteo reale per esprimere pubblicamente e solennemente la sua gratitudine alla Madonna delle Grazie, alla quale riconosceva umilmente la sua nascita. Ebbene, proprio in quell'anno, cioè pochi mesi dopo, quindi il re arriva a febbraio, noi arriviamo al giugno, il 7 giugno dello stesso anno, Cotignac riceveva dal cielo un'altra visita immensamente preziosa. Era San Giuseppe che fece scaturire una fonte miracolosa che sarebbe stato anch'esso simbolo di tante altre grazie, sia per Cotignac, per la Provenza, ma anche per tutta la cristianità. Ma visto che è un'apparizione, possiamo dire che è l'unica apparizione in cui è solo San Giuseppe, quindi ci sono state altre apparizioni, tipo a Ghiaia di Bonate, ma soprattutto anche a Fatima, in cui San Giuseppe era insieme alla Madonna e a Gesù, questa apparizione è stata riconosciuta dalla Chiesa. E la spiego. Il pastore Gaspare Riccardo, questo ragazzo aveva 22 anni e faceva il pastore per vivere, la mattina del 7 giugno 1660 pascolava il suo gregge sulle alture del Bessillon, una catena montuosa che si stende, coperta di querce, al di là del Monte Verdeil, sul quale sorgeva il santuario della Madonna delle Grazie, di cui abbiamo visto poco fa. Si sapeva da secoli, da sempre, che dai fianchi di quei monti non scaturisce alcuna sorgente d'acqua viva a cui potersi dissetare, oppure dar da bere anche agli animali. Per cui verso mezzogiorno questo povero ragazzo, che ormai aveva prosciugato da ore la sua borraccia, e c'era un sole cocentissimo, languiva dalla sete, ma soprattutto cominciava a sentirsi male, era praticamente disidratato, e sdraiato all'ombra di un cespuglio, mentre le sue bestie erano ammassate lì vicino a meriggiare, si lamentava e gemeva, praticamente stava collassando, perché aveva probabilmente non aveva fatto una giusta scorta d'acqua, e quindi era praticamente da ore assetato sotto il sole cocente, si sentiva male. Oltretutto non poteva andare a Cotignac perché ci volevano diverse ore di cammino, ma soprattutto non poteva lasciare da solo gli animali incustoditi perché c'era il timore che li rubassero. Insomma, con il trascorrere del tempo, Gaspare cominciò a sentirsi mancare e anche qui vedeva un po' la morte in faccia perché si sentiva un po' all'ultimo istante di vita, per farla breve. A un certo punto, in modo sconcertante, sorprendente, si erge davanti a lui la figura imponente di un uomo che gli dice, indicandogli un grosso macigno, «Io sono Giuseppe, solleva quella pietra e potrai dissetarti». Gaspare, che quasi esanime, guardava anche con stupore la pietra, che era enorme, esclama, «Ma non posso sollevare una pietra così grande». Ma il giovane ripete il suo ordine in modo perentorio, alla fine obbedisce e con grande meraviglia riesce ad alzarsi e a rimuoverla senza il minimo sforzo. Subito dal punto dove era questo grosso masso, zampilla una grande polla di acqua viva che sgorga e scorre per rinfrescare tutto il terreno arido. Gaspare vi si getta sopra a bocconi e beve a sazietà, senza curarsi di colui che gliel'aveva procurata. Quando poi dopo qualche minuto si alza per ringraziarlo, non lo vede più, è scomparso, senza lasciare alcuna traccia, eppure, voglio dire, dovrebbe vederlo perché la visuale da lì è ampia. E comincia però anche a rendersi conto in quel momento, comincia a riprendersi, a rendersi conto di quello che è accaduto. Cioè in un primo momento pensava fosse un miraggio, che fosse, diciamo, la calura del sole gli avesse dato alla testa. Invece vede veramente l'acqua che gorgoglia, che scorre limpida, fresca, la vede brillare alla luce del sole, impregnare le zolle inaridite dal sole. Ricorda anche le parole allora dello sconosciuto, il suo gesto autorevole, il sospetto imponente E allora prova nel cuore un bisogno irresistibile di andare a raccontare a tutti questo prodigio a cui è assistito. Allora, senza più curarsi di altro, abbandona il gregge e corre attraverso burroni pericolosi, rovi e sterpi verso Cotignac. E lì, dopo un bel po' di tempo, arriva praticamente affaticatissimo, non si regge in piedi, e sulla piazza del villaggio fa segno alla gente di avvicinarsi e si mette a raccontare quello che gli è accaduto, commuovendosi, infervorandosi sempre più man mano che racconta quello che gli è successo. Tutti accorrono, fanno ressa intorno a lui, chi è meravigliato e commosso per quanto sta ascoltando, chi invece è incredulo ed è pronto a farsi beffe dandogli del visionario. Ma il pastore non si stanca di ripetere a tutti quello che ha visto, che ha udito, che ha gustato, che ha bevuto. E ancora il giovane imponente, il macigno rimosso, l'acqua che è fresca e poi la scomparsa improvvisa di questo giovane. E proprio, cari amici, in quei momenti così concitati, in quel tumulto di voci pro e contro quello che diceva Gaspare, si levò la voce di un anziano che con buon senso gridò: è inutile che stiamo qui a discutere se è vero o no, andiamo a vedere e si saprà la verità. E si avviarono verso la montagna. Il pastore andava innanzi a tutti e tutti lo seguivano con l'animo in preda ai più svariati sentimenti. Dopo alcune ore di cammino, il pastore indicò e disse: la sorgente è là. Tutti furono sconcertati perché non se l'aspettavano, soprattutto chi voleva beffarsi di lui, dicendo: questo gli ha fatto male il sole alla testa. E fu un grido di trionfo, ci viene detto dalle cronache, da parte di tutta la folla, specialmente dei più anziani, che ben sapevano come lì, in quei luoghi, non c'era mai stata, non si era mai scoperta una polla d'acqua, perché non esisteva. Al vedere poi il grosso macigno che Gaspare aveva spostato senza il minimo sforzo, crebbe ancor più la meraviglia, specialmente quando 8 uomini fra i più robusti tra loro si accinsero a smuoverlo senza spostarlo di 1 centimetro. E Gaspare stesso si rese conto d'un tratto che era stato il cielo a comunicargli quella forza straordinaria, e in quel momento ne fu come impaurito, impaurito da quello che gli era successo, e ricordandosi del personaggio misterioso esclamò: è stato San Giuseppe a darmi quella forza, sì, non può essere altri che lui. E questa sua emozione, ci viene detto, si comunicò a tutta la folla che l'aveva seguito, e tutti si buttarono in ginocchio seguendo il suo esempio, e insieme ringraziarono lo sposo della Vergine Maria che si era degnato di visitare Cotignac e donare quella prodigiosa sorgente. Intanto tutti cominciarono a bere di quell'acqua con grande fiducia nel potere di San Giuseppe, non solo a portarla anche nelle proprie case per i bisogni materiali ma anche quelli spirituali, quasi presentissero la virtù curativa che il nostro santo, col suo celeste potere, l'aveva conferito. E la fama dell'avvenimento si diffuse presto all'intorno, e non solo all'intorno, ma in Francia, e molti fedeli accorsero per vedere la sorgente e bere dell'acqua prodigiosa, e non tardarono anche qui, cari amici, a piovere grazie dal cielo. E a conferma di quanto successo, anche le autorità ecclesiali e civili, dopo aver naturalmente interrogato, visto e approfondito tutta, diciamo, la situazione, messa al corrente di quanto era successo, accolsero questa apparizione, ma io direi, oltre che loro, fu lo stesso Papa Alessandro VII che accolse, che diede l'imprimatur a questa apparizione, e lo stesso Luigi XIV tornò per andare a visitare questa fonte e a rendere omaggio a San Giuseppe. Comunque, diciamo, le autorità ecclesiastiche e civili di allora suggerirono ai fedeli, ai devoti, di impiegare le obbligazioni, cioè con i voti, no? Quindi ci si obbligava, non so, a dare qualcosa, ci si obbligava personalmente, in libertà, a dare qualcosa, per metterlo a disposizione per costruire un santuario proprio in onore di San Giuseppe. E così la popolazione di Cotignac si accinse con grande fervore all'impresa, nonostante abbiamo visto la distanza e la difficoltà per il trasporto dei materiali. Comunque il santuario venne costruito nel giro di pochi mesi e divenne meta di tanti pellegrinaggi da tutte le parti della Francia. Oggi questo santuario è retto dalle suore di clausura, dalle suore benedettine. Intanto, verso la fine di settembre, i fedeli del paese, guidati dai padri oratoriani, padri che reggevano il santuario della Madonna delle Grazie, si recarono in solenne processione proprio alla fonte di San Giuseppe, presso la quale era stato costruito il nuovo santuario che venne benedetto e affidato ai padri stessi. E qui lo stesso vescovo della diocesi, Monsignor Zoco Giuseppe Andé, che si trovava proprio allora a Parigi perché c'era un'assemblea del clero francese, scrisse ai padri oratoriani una lettera con la quale affidava loro la cura del nuovo santuario di San Giuseppe, come già facevano con quello delle Grazie. E Monsignor Ondé si esprimeva così: «Dal momento che a Dio è piaciuto di elevarci, per pura misericordia e senza alcun nostro merito, al governo della diocesi di Fréjus e delle sue dipendenze, egli ci ha pure fatto la grazia di non avere altro desiderio che di contribuire con tutte le nostre forze all'esaltazione del suo nome. E poiché il Signore si compiace di procurarsi questa gloria esteriore mediante la glorificazione dei suoi santi, ci sembra che egli abbia voluto scegliere in modo particolare a questo fine la nostra diocesi, ed in questo è il villaggio di Cotignac, nel quale, oltre alle grazie che dispensa in onore della Vergine Santissima, madre del suo divin figliolo Gesù Cristo, egli ha voluto ancora, da qualche tempo, dispensare nuove grazie per mezzo del suo padre putativo San Giuseppe, mediante la fontana scaturita nelle terre di Cotignac, per non separare, dice il vescovo, nella devozione dei fedeli, i due santi personaggi che egli aveva congiunto in terra per il mistero della nostra salute». Sappiamo, cari amici, che San Giuseppe è comunque venerato in molte parti nel mondo e addirittura alcuni stati, ne cito qualcuno come il Canada, l'Austria, il Perù, ma anche città e luoghi e paesi, lo hanno voluto come patrono. E come abbiamo anche la gioia di vedere tante chiese e santuari proprio titolati a questo grande santo, oltre a congregazioni, confraternite, costituito in suo onore, oltre a queste anche tante pie pratiche che ci permettono di ottenere la sua intercessione verso il Signore. Naturalmente sono devozioni che probabilmente buona parte di noi forse già attua, ma come sempre non basta la lettura di una devozione, ma la devozione deve essere fatta con il cuore, perché la preghiera con il cuore è quella che apre il cuore di Dio e fa scendere le grazie. La sola lettura fa scendere ben poco, diciamo, in questo caso. Ma volevo parlarvi, a chiusura, diciamo, di questa trasmissione, di una devozione particolare, molto conosciuta. Sono i sette Paterave Gloria in onore e ricordo dei sette dolori e delle sette allegrezze che San Giuseppe nel mondo. Perché? Perché è collegata anche qui ad un'apparizione di San Giuseppe. E riprendo Fra Giovanni da Fano, questo frate, siamo nel XVI secolo, che è stato uno dei promotori della riforma che diede origine al nuovo ramo francescano dei Cappuccini. In un suo trattato scrive, conosceva un frate minore dell'Osservanza, un suo carissimo amico, che stimava molto, un sant'uomo, viene a sapere come San Giuseppe, dopo aver salvato da sicura morte due frati di quell'ordine, disse loro: «Io sono San Giuseppe, degnissimo sposo della Beatissima Madre di Dio, al quale tanto vi siete raccomandati. E nuovamente ho impetrato dalla divina clemenza infinita che qualunque persona dirà ogni giorno, tutto un anno, sette Pater Noster e sette Ave Maria, reverenza dei sette dolori che io ebbi nel mondo, ottenga da Dio ogni grazia, purché giusta». Qui non si parla ancora di allegrezza né di gloria perché è stato aggiunto e sono stati aggiunti dopo, diciamo nei secoli, ma tornando all'espressione ogni grazia è principalmente compresa, cari amici, quella che è la più importante in assoluto, cioè la salvezza della nostra anima, quindi la perseveranza finale. E possiamo dire senz'altro che questa pratica in onore di San Giuseppe, ce ne sono poi dicevo anche altre, tipo il manto di San Giuseppe, il rosario di San Giuseppe, ma questa è in particolare perché questa pratica corrisponde in un certo modo a quella del Santo Rosario in onore di Maria Santissima. Infatti, entrambe le devozioni affondano le loro radici nella Sacra Scrittura e nell'antichità cristiana. Entrambe gravitano intorno alla vita di Gesù e al mistero della salvezza. Entrambe sono approvate e anche indulgenziate dalla Chiesa. Hanno quindi un valore non soltanto privato e particolare, ma pubblico e quindi anche universale. E vi racconto cosa scrive proprio fra Giovanni da Fano nel suo trattato di Arte e Unione, riportando questa apparizione, che io, naturalmente siamo liberi di pensarlo o me, di crederci o meno, comunque quello che è stato allora, come si potrebbe dire, registrato nelle cronache. Quindi è una testimonianza vera questa qui. Scrive fra Giovanni da Fano: «Mi narrò un frate minore dell'osservanza degno di fede, che essendo due frati del detto ordine in una nave che andava in Fiandra con circa 300 persone, questa nave ebbe per 8 giorni una grandissima tempesta. Uno di quelli frati era predicatore, devotissimo di San Giuseppe, al quale con tutto il cuore si raccomandava. La nave si sommerse con tutti quegli uomini, perché affondò praticamente, e il frate con il suo compagno si trovarono nel mare sopra una tavola, uno per banda, sempre raccomandandosi con grandissima fede a San Giuseppe». Lo sto leggendo nella semplicità dell'italiano di allora, questo piccolo tratto. Il terzo giorno apparve in mezzo alla tavola, quindi in mezzo al mare, un bellissimo giovane che salutandoli disse: «Dio vi aiuta, frati, non dubitate». E detto questo, tutti e tre con la tavola si trovarono in terra. Allora i frati, inginocchiati con molta devozione, ringraziarono il giovane. Poi il predicatore disse: «O nobilissimo giovane, vi prego per amor di Dio che mi diciate chi voi siete». E lui rispose: «Io sono San Giuseppe, degnissimo sposo della Beatissima Madre di Dio, al quale tanto vi siete raccomandati, e dal benignissimo Signore sono mandato a liberarvi. Sappiate che se questo non era, voi insieme con gli altri sareste morti». E nuovamente ho impetrato dalla divina clemenza infinita, ecco qua, che qualunque persona dirà ogni giorno, tutto un anno, 7 Pater Noster e 7 Ave Marie, a riverenza dei 7 dolori che io ebbi nel mondo, ottenga da Dio ogni grazia, purché sia giusta. Allora disse il frate: «Nobilissimo sposo della Madre di Dio, vi prego, mi diciate quali fossero quei 7 dolori». E San Giuseppe li elencò. Il primo disse, è tutto ripreso dal Vangelo questo, sono tutti tratti che fanno poi fede al Vangelo. Il primo fu quando, alquanto tempo da poi che ebbi sposato la benignissima Vergine, vedendo alcuni segni della sua gravidanza, non sapendo il segreto mistero dell'incarnazione, ebbi tanto grande dolore che non si potrebbe con lingua esprimere. Io le portavo eccessivo amore, non volevo accusarla perché sarebbe stata lapidata. Non voleva dirmi niente, Maria, non sapendo se era volontà di Dio che me lo dicesse, e non faceva se non piangere. All'ultimo piacque al Signore farmi intendere la verità, mandando l'angelo suo, come sappiamo. Il secondo fu quando la notte della natività del Figlio di Dio mi trovai in quella stalla, senza alcun umano sussidio, e ancora con gran desiderio io aspettassi vedere il Figlio di Dio. E poi che lo vidi, avessi grandissima consolazione. Non di meno ebbi gran dolore, non potendo onorare quella degnitissima natività come meritava. Il terzo fu quando, l'ottavo giorno, egli fu circonciso. Vedevo quel povero figliolo innocentissimo piangere e guardava verso la madre, quasi chiamando aiuto. E lei non poteva darlo, perché bisognava osservare la legge. Lei piangeva, tutti piangevano per compassione, onde questo a me fu grandissimo dolore. Il quarto fu quando, il quarantesimo giorno, usciti da quel luogo dove tanto tempo eravamo stati con tanta comodità, eravamo allegri e contenti per avere in compagnia il nobilissimo Figlio di Dio. Ed entrando nel tempio, Santo Simeone disse alla madre sua che il coltello della sua passione le passerebbe l'anima. Onde lei cominciò a piangere, io ancora piangevo, di immenso dolore ferito, pensando da quel povero bambino appena era nato e già si cominciava a ragionare della sua passione. Il quinto, quando mi bisognò di fuggire in Egitto, ritrovandovi con la mia sposa giovinetta, e per paura che mi fosse tolto il bambino e ammazzato, onde in quella ebbi grandissimi e inestimabili dolori. Il senso fu nel ritornare in Egitto, quando il bambino era tanto grande che comodamente non potevamo portarlo né lui poteva camminare, in modo che in quel viaggio avemmo grandissime angustie e affanni. Poi il dolore fu rinnovato quando intendemmo che Archelao regnava per Erode padre suo, cioè al posto di Erode, ebbi grande paura e dolore. Il settimo e ultimo, quando avendo lui 12 anni, Gesù, rimase in Gerusalemme e per 3 giorni lo perdemmo. Qui dice San Giuseppe, questo dolore passò tutti gli altri. E dette queste cose, San Giuseppe disparve. Questo è quanto ci dice nel trattato fra Giovanni da Fano su testimonianze giurate, in questo caso. Ecco, cari amici, concludiamo così con questa devozione particolare, proprio la presentazione della figura unica e immensa del Padre Virginale di Gesù. Io sono stato contento comunque di fare, a volte magari è risultato un po' pesante, però vi assicuro che è stato per me un onore poterlo presentare. E ringrazio San Giuseppe e anche voi e Radio Maria per avermi dato questa possibilità. Quello che spero è, con tutto il cuore, che in questi incontri abbiano fatto scaturire in tanti di voi una stima nuova, un affetto, proprio una devozione nuova, devo dire, nei confronti di questo gigante della santità. E anche per riservare a San Giuseppe un posto più vicino al nostro cuore, cioè rivolgendoci a noi, a lui con più passione, con più amore, con più affetto, perché lo merita davvero questo santo. Ecco, sia per noi l'esempio proprio, no? Da quello che abbiamo sentito, del nostro vivere bene in famiglia, con amabilità, nel lavoro, con dignità, nella vita, con serenità. Ecco, dico, affidiamoci a lui, cari amici, e San Giuseppe ci aiuterà veramente, con la sua potente intercessione, a camminare pur nelle difficoltà di ogni giorno, ma a vivere nella speranza e nella grazia, fino al momento estremo, grande, unico, della nostra nascita al cielo. Cari amici, abbiamo concluso, ecco, questa sera le nostre trasmissioni su San Giuseppe. Ricordo sempre che lo abbiamo praticamente fatto sul libro che ho scritto, San Giuseppe, la tenerezza di Dio, in cui trovate anche altre parti che non abbiamo potuto per ragioni di tempo naturalmente presentare durante le trasmissioni. Le edizioni sono su Garco Edizioni, che potete trovare in tutte le librerie, oppure potete richiedere, se lo gradite, su Amazon, IBS o tutte le altre piattaforme online per poterlo chiedere. Diciamo che ci fermiamo qui, non riusciamo a fare telefonate, me ne dispiace molto, però se desiderate, allora innanzitutto potete domani scaricare anche questa trasmissione gratuitamente, come Radio Maria fa per tutte le trasmissioni, online, collegandovi al sito di Radio Maria e cercando appunto le trasmissioni online dell'ultimo mese. Oltre a questo ci risentiremo, a Dio piacendo, il primo lunedì di ottobre, ecco, riprendiamo la nostra classica vita dei santi, come abbiamo sempre fatto, presentando una bellissima figura che poi, adesso non vi anticipo, poi la vedremo insieme il primo lunedì di ottobre, quindi entriamo nel mese missionario per eccellenza, anche nel mese del Rosario. Vi ringrazio, ecco, per l'ascolto, vi raccomando al cuore di ognuno di voi ancora questa meravigliosa figura di San Giuseppe. Preghiamolo perché ci aiuterà veramente tantissimo, soprattutto oggi, ne abbiamo veramente tanto, tanto bisogno. Un abbraccio a tutti voi da Angelo e grazie a Marco in regia. Buonanotte. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.